Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Insomma, abbiamo scherzato, lo dico con una battuta, ma il tema è serissimo, nel senso che dopo il tonfo di ieri di tutte le borse, per Milano non era il primo, ahimè, oggi Milano recupera più delle altre borse, sullo stesso motivo per cui ieri perdeva più di altre borse, quindi i titoli bancari. La domanda che immagino sorga spontanea è: ma che cosa è cambiato? Nulla, nulla, ci sono ricoperture, come ieri abbiamo cercato di spiegare anche agli scettici, nervi saldi, non cedete, diciamo, al panico della speculazione, che poi il panico è quello dei piccoli risparmiatori, lo speculatore ha tutto tranne che panico, sa benissimo cosa sta facendo, e c'è chi oggi si è ricoperto, che vuol dire che è andato a comprare i titoli a prezzi bassissimi, proprio sui titoli che maggiormente erano calati, in alcuni casi crollati. Il Monte dei Paschi oggi guadagna il 42%, e cioè è ancora sotto un euro per azione, ma a 72 centesimi. Quindi chi oggi ha comprato Monte dei Paschi questa mattina ha guadagnato in un giorno solo il 40%, se l'ha venduto ieri, ma anche se l'avesse venduto nei giorni scorsi, quando il titolo ha preso a calare pesantemente, ha fatto un guadagno assolutamente a due cifre. Discorso analogo, anche se di minore intensità come guadagno, per alcune banche, e mi riferisco nel caso specifico alla Cassa di Risparmio di Genova, oggi più 31,20%, la Popolare Emilia Romagna più 12,20%, il Banco Popolare più 10,50%. Ecco perché invitiamo sempre il piccolo risparmiatore a non farsi prendere il panico, sono giochi troppo grandi e speculativi, non voglio dire sporchi, perché insomma, ma speculativi sicuramente, e cinici, mettiamola così, perché ci si ficchi dentro un piccolo risparmiatore. Unicredit più 8%, Ubibanca più 6,5%, Mediaset più 6,20%, Mediobanca più 6%, Popolare di Milano più 5,90%, Fiat Chrysler più 5,5%, il 4,90% lo guadagna Intesa San Paolo, e anche Azimut, il 4,60% il rialzo di Prismian e di CNH, il 4,5% di Exor e Telecom Media, il 4,30% di Moncler e Anima Holding, e il 4% è il rialzo di Tenaris. Perde invece anche oggi Saipem, però attenzione, lì ci sono notizie specifiche sul titolo, ne parleremo nel corso dell'approfondimento con i mercati finanziari e con Radio Core. Oggi il mercato sostanzialmente attende la fine del Consiglio di Amministrazione, che dovrebbe annunciare il prezzo dell'aumento di capitale. Partirà il 25 gennaio, quindi lunedì, e si chiuderà l'11 febbraio, un aumento di capitale da 3 miliardi e mezzo di euro per Saipem. E questo per quello che riguarda il mercato: più 4,26% dicevo Milano, più 2,20% Parigi, più 2,20% anche Francoforte, più 1,50% Londra, più 1,1% il Dow Jones, quindi 2 punti percentuali in più rispetto a Milano, come ieri perdeva 1,5 punti in più rispetto alle altre borse, e ha perso più delle altre borse in queste giornate per via dei titoli bancari italiani. Parleremo di questo, parleremo anche chiaramente delle parole di Mario Draghi, oggi pronunciate a tassi invariati, dell'intervista del Sole 24 Ore al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, oggi in prima pagina l'intervista del direttore Roberto Napoletano, il titolo per chi se lo fosse perso è: c'è una manovra su alcune banche ma il sistema è solido, non c'è nessun attacco all'Italia, e la frase è: il mercato bellezza, ora avanti con le fusioni, le aggregazioni e gli acquisti. E poi la famosa frase: a questi prezzi il Monte dei Paschi è un affare, sul Monte dei Paschi deciderà comunque il mercato. Poi il Presidente del Consiglio oggi è riintervenuto, perché ha riparlato in conferenza stampa per quello che riguarda il Consiglio dei Ministri che si è concluso ieri in serata, e quindi soprattutto riforma della pubblica amministrazione, la stretta cosiddetta sui furbetti, e anche di questo parleremo. Banca Centrale Europea che riconosce invece che l'inflazione è più bassa del previsto, complice il crollo del petrolio, e che i rischi per l'economia sono aumentati. faremo tutto il possibile per l'inflazione, ha detto Mario Draghi. Adesso vi arriviamo a uno dei temi dei nostri approfondimenti, e poi sulle banche italiane, ha detto che le banche in Italia hanno un livello di patrimonializzazione nella media dell'area euro, quello che il Sole 24 Ore modestamente riportava ieri. Ne parlavamo con l'autrice del raffronto, Antonella Olivieri, che se vai a vedere il patrimonio rispetto ai crediti deteriorati, quindi alle sofferenze, il patrimonio nella media europea è anche, lo dice Mario Draghi, un alto livello di garanzie e di collaterale. Cos'è il collaterale? Insomma, è quello che viene messo, diciamo, sostanzialmente a garanzia di un titolo. Sappiamo comunque, ha detto Draghi, che per i crediti deteriorati ci vuole tempo. Lo ascolteremo fra pochissimo. Rapidamente le altre notizie in breve: 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, dico a un ascoltatore, io non ho detto che il piccolo risparmiatore è meglio che stia dentro solo quando si perde a mani basse. Ho detto che vendere di fronte al panico, e che poi in questo caso significa speculazione, o meglio farsi prendere dal panico se tu hai già il titolo di fronte alla speculazione, significa che se avessi venduto ieri o l'altro ieri ti portavi a casa solo le perdite. Nessuno qua alla sfera di cristallo, ma è ovvio che un mercato che butta giù un titolo del 20% e il giorno dopo lo acquista e lo fa salire del 40%, è un mercato in mano alla speculazione. Non c'è nessuna notizia di mercato, questo abbiamo detto. Si vende sulle notizie, o meglio in inglese dicono vendi sulle notizie e compra sui rumors, sulle voci, però in generale sarebbe sempre meglio vendere e comprare sulle notizie. Sicuramente non si va a vendere sul panico, che era il nostro, perché il panico del piccolo risparmiatore, ripeto, è la speculazione e il guadagno dello speculatore o dell'investitore professionale. Infatti oggi mi sta scrivendo un ascoltatore che dice: i trader, quelli bravi come me, vabbè, questo se lo dice da solo, è tre giorni che fanno vendemmia, cioè che guadagnano in borsa vendendo quando potevano, fino a 3 giorni fa l'ho scoperto, e comunque comprando a prezzi molto più bassi. Allora, domani si vede, sì, domani si vede. Qualcuno mi scrive se il rimbalzo del gatto morto, bah, non lo so. A me sembrava che anche il calo non fosse un calo giustificato, ripeto, guardando se ha ancora un senso i valori patrimoniali, le garanzie sui crediti e quello che raccontavamo ieri come percentuali, confrontandone con altre grandi banche europee, per cui insomma io lì resto. Vabbè, per il resto non c'è molto oggi, oltre a Mario Draghi, al recupero delle borse e ai casi di Casa Nostra, intesi come posizione del governo sulle banche. Devo dire che l'unica notizia di rilievo sul fronte internazionale riguarda ancora una volta il rublo, che è impicchiata, nel senso che ormai siamo arrivati a un euro che vale 92 rubli e un dollaro che ne vale 84. Sono nuovi record. Certo che questo sarà conveniente per chi vuole andare in viaggio in Russia, è tutto tranne che conveniente per le nostre imprese che devono esportare in Russia, già fortemente penalizzate in alcuni settori, alimentare e legno arredo su tutti, per quello che riguarda l'embargo e le controsanzioni russe. Ah, giustamente mi chiedete com'è il volume degli scambi sul Monte dei Paschi, perché il volume è importante, nel senso che magari possono essere, dico come battuta, 10 operatori che fanno il prezzo. No, i volumi sono altissimi, già inizio mattinata e poi si è arrivati a 200 milioni di azioni passate di mano. Cosa vuol dire 200 milioni? Vuol dire che in un giorno sono passate di mano tante azioni nel Monte dei Paschi quanto capita sostanzialmente in 4 mesi, perché una media mensile di 50 milioni di azioni, in un giorno ne scambi 200 milioni, insomma, questo per dare l'intensità del numero di azioni passate di mano e anche appunto della speculazione sul titolo. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms, il Consiglio dei Ministri sui dirigenti, o meglio sul pubblico impiego, si è tenuto ieri sera, però oggi, questa mattina, la conferenza stampa, via libera innottata appunto ai primi 11 decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione, taglio delle partecipate e avremo ospite anche Joram Gutkel, e quindi il commissario alla Spending Review, visto che ieri sono arrivate novità sulla Spending Review, colui che ha preso il posto di Carlo Cottarelli. Dicevo, taglio delle partecipate, stretta sui licenziamenti dei furbetti, cosiddetti furbetti, io più che furbetti li chiamerei disonesti, riforma dei porti, accorpamento della forestale, via libera anche alla riforma delle classi di concorso per la scuola. Il ministro Madia ha commentato: ora lo Stato è più semplice. Il presidente del Consiglio Renzi ha detto: ora la novità è che licenziamo i dirigenti. I furbetti del cartellino, chi timbra e se ne va. Ho letto autorevoli commenti dicendo: le norme ci sono già. La norma è molto semplice: se io ti becco a timbrare il cartellino, entro 48 ore ti mando a casa sospendendoti, con 30 giorni poi per chiudere il procedimento. Ma la vera novità è che non è previsto questo. È possibile, ma non è obbligatorio, è il dirigente che deve scegliere. La differenza rispetto alle norme del passato, visto che c'è una felice sintesi tra Brunetta e la CGIL che dicono: ah, le norme ci sono già. Sì, non sono efficaci come questa. Questa è una norma per cui, se la Madia è quella che timbra il cartellino e se ne va, e la Giannini è la dirigente, oggi non c'è un obbligo di licenziamento della Madia. È la Giannini che può valutare se fare o no. Noi diciamo: cara Giannini, se non la licenzi te, non ti preoccupare, licenziamo anche te. Questo è un modo democratico di interpretare, ovviamente, il ruolo del dirigente. Oh, poi vi arriveremo, appunto, abbiamo ospite Joram Gutgeld sui temi anche delle partecipate, le famose 8.000 partecipate dagli enti locali, di cui 3.000 con meno di 6 dipendenti, come si fa la spending review, dove si va a tagliare. Sono temi che domani, ahimè, riaffronteremo parzialmente nella classifica, nella poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione e anche degli enti locali, come ogni venerdì a Focus Economia. Partiamo col primo tema, però. Mario Draghi. Qualcuno scrive: è merito di Super Draghi. Non lo so, nel senso, certo che Draghi ha parlato anche delle banche italiane e ha chiarito una cosa che chi avesse voluto guardare i numeri già capiva, si leggeva al Sole 24 Ore di ieri e già sapeva tutto. Le banche italiane sono ben capitalizzate, hanno un livello di patrimonializzazione nella media dell'area euro e un alto livello di garanzie di collaterale. Sappiamo che sulle sofferenze, cioè sui crediti deteriorati, ci vuole del tempo. La nostra non è un'iniziativa che vuole spingere le banche a risolvere urgentemente il tema dei crediti. Sappiamo che lì ci vuole molto tempo. No new unexpected provisioning. Nessun nuovo e inatteso accantonamento o nuove richieste di maggior capitale per le banche europee sarà avanzato dalla vigilanza. Nello specifico, le banche italiane hanno in media accantonamenti simili alle banche dell'area euro e hanno anche un alto livello di garanzie e collaterali. La vigilanza europea è assolutamente consapevole che la gestione dei crediti deteriorati richiede diversi anni. Non è qualcosa che può essere richiesto con urgenza e risolto in breve tempo. La vigilanza ha inviato il questionario a diverse banche nell'area euro, non solo a quelle italiane. Non è un'iniziativa che vuole spingere le banche a risolvere urgentemente il tema dei crediti deteriorati. Sappiamo che ci vuole molto tempo. Il comportamento dei mercati nei confronti delle banche dipende dalla confusione e anche dalla discussione attorno alla bad bank. È brutto citarsi, però Mario Draghi poi ha ricordato che la famosa lettera, il questionario inviato dalla vigilanza alle diverse banche dell'area euro, fra cui le italiane, che aveva provocato forti tensioni in borsa. Come il Sole 24 Ore ha scritto, per questo dico brutto citarsi, ma è doveroso in questo caso, tre giorni fa, ha detto: il senso del questionario è molto banale, rientra nelle buone pratiche sulla gestione dei crediti deteriorati, è stato inviato a molte banche in diversi paesi, non c'è un caso Italia. Alessandro Merli, in collegamento da Francoforte, buonasera, corrispondente Sole 24 Ore. Sì, buonasera a voi. Allora, io non so se abbia dato una mano Draghi, anche perché, ripeto, tutti questi dati, questo commento complessivo era desumibile da quanto avete scritto sul Sole in questi giorni, e anche relativamente alla lettera. Tu ritieni che vi sia stato un effetto Draghi sulla borsa, oppure tanto avrebbero speculato comunque? Ma diciamo che i cali nei giorni scorsi erano stati talmente forti che forse c'era lo spazio per un rimbalzo. Comunque è chiaro che Draghi ha messo a punto, ha puntualizzato diverse cose secondo me molto importanti su due fronti. Uno è quello delle banche che hai appena citato, giustamente autociti il Sole 24 Ore, quegli articoli li ho scritti io, però un conto è se le cose le scrivo io e un conto è se le cose non ti buttare giù. Me le faccio dire o le dice Mario Draghi in risposta a una mia domanda oggi in conferenza stampa, quindi evidentemente molto più potevi dire a Draghi che l'avevi già detto. Questo sarebbe stato forse un po' spingersi un po' troppo in là. Comunque la cosa secondo me molto importante che Draghi ha detto: questo questionario non è il preludio a una richiesta di altro capitale né di altri accantonamenti alle banche italiane. Credo che italiane e le altre coinvolte in questo esercizio, perché l'altra cosa che ha precisato Draghi, che pure noi avevamo scritto ma è bene che l'abbia detta lui, che ci sono diverse decine di banche coinvolte, fra cui alcune italiane, ma che non necessariamente c'è un mirino, un riflettore, come si tende a volte a dire, con un po' magari anche di vittimismo in Italia, che sempre tutti i riflettori sono puntati su di noi. Tutte le banche europee, a molte banche europee è stato fatto circolare questo questionario, che però è di carattere qualitativo. Draghi dice: lo sapevamo già quali sono i crediti deteriorati, perché abbiamo appena fatto una valutazione complessiva delle banche con lo stress test, abbiamo appena finito quello che si chiama lo SOREP, quindi lo sappiamo già quali sono i crediti deteriorati, vogliamo solo chiedere alle banche un po' come si regolano, com'è la loro gestione di questi crediti deteriorati, e alla fine trarremo delle conclusioni su come gestirli, ma senza fretta. Dice: non è che c'è domani, si pretende che tutte le banche spazzino via dai loro bilanci questi crediti deteriorati, che evidentemente sono un problema, perché chiaro, pesano sulle banche e quindi pesano anche sul nuovo credito. Ma noi banalmente dicevamo, scusatemi, il problema dei crediti deteriorati e delle sofferenze c'è, perché sono più di 200 miliardi, ma c'era anche a novembre, c'era anche a dicembre, c'era anche a ottobre, non è che lo raccontiamo ogni mese, c'è il dato dell'ABI, della Banca d'Italia sulle sofferenze bancarie, eppure la Borsa di Milano è stata una delle migliori l'anno scorso come andamento, no? Allora, non è che scopriamo improvvisamente una cosa. Devo invece fare una rettifica, chiedo venia, ho sbagliato, chiaramente il Monte dei Paschi oggi ha dei volumi che sono 4 volte superiori alla media, a quella che si chiama media mensile, nel senso che la media mensile di ogni giorno di contrattazione, quindi in una giornata sta facendo quello che fa di solito come scambio di azioni, compravendita di azioni, quello che fa in 4 giorni o addirittura, vedendo i volumi adesso, in una settimana, non in 4 mesi, è un mio refuso. Ci mancherebbe. Andiamo avanti invece con Draghi, e tu ricordavi la parte delle banche italiane, c'è anche tutto il fronte invece più preoccupato su inflazione e prospettive dell'economia. We decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati e ci aspettiamo che restino a questo livello, se non più basso, per un lungo periodo di tempo. Circa le misure straordinarie, gli acquisti stanno procedendo senza problemi e continuano ad avere un effetto favorevole sul costo e sulla disponibilità di credito per imprese e famiglie. È evidente che le misure adottate da metà 2014 stanno funzionando e hanno rafforzato la capacità dell'area euro di reagire agli shock dell'economia globale. La decisione presa a dicembre di estendere gli acquisti mensili da 60 miliardi fino almeno alla fine di marzo 2017 è stata assolutamente appropriata. Eppure, con l'inizio dell'anno, i rischi al ribasso sono aumentati di nuovo. Tra questi, l'alta incertezza sulle prospettive di crescita delle economie emergenti, la volatilità sui mercati finanziari e delle materie prime e i rischi geopolitici. In questo contesto, l'inflazione resta più debole delle attese. Sarà dunque necessario rivedere e possibilmente riconsiderare la nostra politica monetaria al nostro prossimo incontro a marzo. At our next meeting in early March. Early March, quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi. Allora, c'è chi sta scrivendo che forse è Draghi che ha studiato sul Sole 24 Ore, addirittura c'è chi ipotizza, Alessandro, che tu sia Draghi. Non scherziamo, però il problema è che Mario Draghi sta mettendo una parola ufficiale e molto istituzionale, molto forte, su quanto in maniera più modesta avevamo scoperto anche noi, nel caso specifico Alessandro Merli, ieri Antonino Olivieri, cioè che bisogna guardare anche i valori, le garanzie, i depositi. Sulla lettera l'hai scritto in tempi non sospetti, attenzione, non è solo relativa all'Italia. Comunque, più preoccupato su inflazione che non riparte anche per il petrolio, troppo basso, e i tassi fermi resteranno per un lungo periodo di tempo. Ma da marzo rivedremo la politica monetaria? Cosa vuol dire, Alessandro? Beh, vuol dire che quello che Draghi ha detto, cioè a dicembre abbiamo preso certe decisioni, andavano bene per dicembre, da allora la situazione si è evoluta, le circostanze sono cambiate, c'è il petrolio, c'è la frenata della Cina, c'è la recessione di alcuni grandi paesi emergenti. Insomma, Draghi ha citato vari fattori. Essendo cambiate le circostanze, abbiamo deciso oggi che a marzo, quando ci saranno le nuove proiezioni sulla crescita e sull'inflazione, implicitamente Draghi ha detto queste verranno riviste al ribasso, a quel punto prenderemo delle altre misure. Era prematuro probabilmente farlo oggi, però essendo armati, diciamo, delle nuove proiezioni a marzo, a quel punto la BCE farà qualcosa che può voler dire o abbassare ulteriormente il tasso sui depositi delle banche presso la BCE stessa, che già sta in territorio negativo per 30 punti base, oppure o anche contemporaneamente allungare ancora i termini dell'acquisto di titoli, del famoso QE, oppure o anche contemporaneamente aumentare il quantitativo di titoli che la BCE compra ogni mese, che adesso sono 60 miliardi di euro e potrebbero essere aumentati, quindi ci sarà un'altra spinta, diciamo, un altro tentativo di far risalire l'inflazione, di smuovere la crescita, la quale peraltro in qualche modo sta reagendo, perché diciamo che la ripresa è uno degli aspetti positivi del quadro economico, perché in Europa è spinta più dai consumi in questo momento che non Che non dall'export, che non dalla domanda estera. Allora, grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Francoforte. Poi nella seconda ora del programma arriveremo invece alla borsa di casa nostra. Ma grazie intanto per il commento. Chiaro che, insomma, da marzo le misure le ha illustrate Alessandro Merli, più o meno sono quelle, ci sono sempre le famose misure non convenzionali, ma insomma le misure sono quelle. Allora, adesso andiamo con Meteo e la pubblicità, poi parliamo di spending review, o meglio partiamo da quello che ha annunciato questa mattina il Presidente del Consiglio Renzi sulle partecipate, e ne parleremo con Yoram Gutgeld per quello che riguarda invece i centri d'acquisto. Sapete, la nostra, non è solo nostra, ci mancherebbe, vecchia battaglia. Se tu hai 33.000 stazioni appaltanti, che cosa vuol dire? Chi può indire una gara per comprare il cerotto, la siringa, la stampante, la fotocopiatrice? Tendi ad avere, non dico 33.000 prezzi diversi, ma quasi, no? Non è solo il problema Val d'Aosta, Calabria, anche all'interno della stessa provincia, della stessa regione, prezzi diversissimi per quelli che si chiamano approvvigionamenti di beni e servizi della pubblica amministrazione, che sono fondamentali, ma non possono costare in maniera così diversa, se no c'è qualcuno che sotto ci sta giocando, o meglio, ci sta guadagnando e rubando. Ecco perché si dice accorpiamole, in modo che meno sono, intanto hai prezzi, dovresti avere prezzi di sconto, e poi sei anche un pochino più controllabile. Ne parliamo dopo il metodo e la pubblicità. ringrazio l'ascoltatore che diciamo, regolarmente perde il suo tempo a insultare il sottoscritto, il programma, Renzi, la radio, tutti i giorni, che Dio manda in terra, con decine di messaggi su WhatsApp. Evidentemente lei può metterlo. Focus Economia. Il punto è dare certezza di diritto rispetto agli ambiti territoriali ottimali, incoraggiare le aggregazioni, rimuovere coloro i quali hanno atteggiamenti che non corrispondono, attraverso le figure commissariali di intervento e di sanzione, coloro i quali non procedono alla fusione. Ma su questo tema, soprattutto per i rifiuti, c'è spazio per un grande, grande percorso di aggregazione. Vale naturalmente come principio di fondo sui servizi pubblici locali, si traduce nel passaggio nel decreto sulle partecipate da 8.000 a 1.000 partecipate. Naturalmente saremo in condizioni di verificare se questo obiettivo è stato raggiunto da qui a un anno. Il taglio immediato delle partecipate inutili è reso cogente e stringente, già c'erano delle norme dei governi precedenti ma non c'era la sanzione. Regole certe per impedire la costituzione di nuove aziende, perché poi il problema vero è che non fa in tempo a cancellarne una che te ne partono due, e la riduzione dello stipendio per gli amministratori che non producono utili. Oh, questo è il passaggio del Presidente del Consiglio questa mattina sulla parte che riguarda le partecipate. Giù verranno ridotte da 8.000 a 1.000 possibili tagli, appunto, le paghe dei manager, così offriamo materiale a chi continua a insultare, perché c'è un fratello di quell'altro che dice: no, sa perché ti insultano? Perché parli come un politico populista che non incalza le malefatte e gli inciucci delle istituzioni. Vabbè. E ti limiti solo a leccare. Ok, vabbè. Infatti domani facciamo una bella leccata con la classifica. Va bene così. Allora, questo l'annuncio che adesso commetteremo anche con Gutke. Ce n'è un altro però che riguarda invece il sottosegretario della pubblica amministrazione Angelo Rughetti, che è intervenuto oggi a Radio 24 proprio sul decreto che limita le partecipate. Dice: beh, ma abbiamo come termine il 31 dicembre di quest'anno, ma già nei prossimi 90 giorni potremo portare un elenco delle aziende che potranno che avranno subito l'applicazione delle norme. Le partecipate che hanno un numero di dipendenti inferiore al numero di consiglieri di amministrazione, e uno dirà: ma sì, ma saranno poche centinaia. No, sono più di 3.000. Le partecipate che fatturano meno un milione di fatturato, le partecipate che vanno in perdita 3 anni su 5 devono essere chiuse. La differenza con queste norme dal passato, due parole di questa notte, dove sta? Sta nel fatto che noi creiamo una norma di chiusura per far sì che questa cosa avvenga realmente e avverrà in modo reale, perché ci sarà una struttura del governo dedicata a monitorare comune per comune, ente per ente, amministrazione per amministrazione, quando ricorrono questi criteri. Gli si darà un alert dicendo: guarda, sì, siete dentro questi criteri, chiudete, se non lo fanno loro lo facciamo noi. Ma noi ci siamo dati come termine il 31 dicembre di quest'anno. Immaginiamo però che già nei prossimi 90 giorni di poter già portare un elenco delle aziende che avranno subito, diciamo, l'applicazione di queste norme, quindi un primo elenco delle aziende chiuse. Allora, anche di questo, cioè di spending review, ma dei rapporti del nostro paese con l'Europa, perché resta sul tema, oggi non è oggetto di questa puntata, parliamo comunque con il commissario della revisione della spesa pubblica, Joram Gutgeld. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Senta, prima di arrivare alle novità sulla spending review, un commento sul rapporto con l'Europa. Adesso il vice ministro Carlo Calenda andrà a Bruxelles ed è un ruolo politico per un lavoro diplomatico abbastanza inusuale. Noi abbiamo difeso anche l'idea che l'Italia possa far sentire le sue esigenze, ma insomma c'è uno scontro sui modi o sulla sostanza, da quello che lei ha visto? Ma io non credo che ci sia uno scontro, ma c'è una richiesta da parte del nostro paese di avere il rispetto e le considerazioni, la considerazione che hanno avuto altri paesi. Alcune questioni che sono ovviamente importanti per il nostro paese. Tutto lì. Poi tutto il resto, come sempre, c'è un po' di mediaticità, ma la sostanza è questo. Ma siccome io credo fermamente che l'Italia ha bisogno di un'Unione Europea forte, ma altrettante l'Unione Europea ha bisogno di un'Italia forte, si troverà accordo su tutti su tutte le questioni aperte. Ma lei la pensa come ministro degli affari europei francese Désir, che ha detto alzare la voce ogni tanto fa bene, riferendosi all'Italia? Ma non è una è una questione di chiedere rispetto e considerazione, quindi queste istanze, senza parlare di alzare la voce, ma di far presente che su alcune questioni noi riteniamo di non aver avuto sufficiente considerazione, forse qualche rigidità di troppo dalla parte dell'Unione Europea, questo è giusto farlo. Ma come dicevo, io credo che, essendo l'interesse di tutti a trovare un accordo sulle questioni, io sono confido nel fatto che un accordo si troverà. Allora, veniamo alla spending review, perché una delle critiche che abbiamo capito dall'Europa era che noi abbiamo disatteso le promesse sia sulla tassazione della casa e anche sulla spending review. Non è un mistero che rispetto ai 10-12 miliardi di obiettivi iniziali di Cottarelli poi si sia scesi, si è scesi anche di molto. Quest'anno, se ho ben visto in finanziaria, sono 5 miliardi di risparmi riconducibili direttamente al piano di spending review, con 3 miliardi e mezzo che arrivano dai ministeri come tagli e giro di vita. La sensazione però è che si vada a fare una vecchia spending, cioè tagli, riduzione di budget ai ministeri, i famosi tagli lineari, e non tagli mirati. Se ci può dare qualche aggiornamento sulle stazioni appaltanti, che ricordo sono quelli che possono dire una gara per comprare dalla garza alla fotocopiatrice, sono 33.000 e amplificano ovviamente i costi e non c'è omogeneità, e anche sulle partecipate da comuni, province, regioni, su cui Cottarelli metteva un pesante accento. Intanto iniziamo a dare qualche informazione. Sì. Nel 2016 la riduzione di spesa o i tagli di capitoli di spesa fatti sommando quello fatto nel 2014 in occasione del DL66, ovvero l'80 euro, nel legge di stabilità 2015, legge di stabilità 2016, sommando queste tre momenti di intervento normativo su spesa, la riduzione complessiva della spesa per il 2016 vale 24 miliardi. Mm-hmm. Nessun paese in Europa ha fatto nulla di simile, se escludiamo i paesi come la Spagna e la Grecia, che hanno dovuto licenziare dipendenti pubblici, tagliare stipendi pubblici a fronte di decine, centinaia di miliardi di aiuti europei. Noi fortunatamente non siamo in questa situazione, ma se confrontiamo l'Italia con la Francia, la Germania, l'Inghilterra, qualunque altro paese che non ha operato in situazione di accordo di aiuti europei, nessun paese in Europa ha fatto nulla simile di quanto abbiamo fatto noi. Tant'è vero che questa riduzione ha permesso a ottenere prima di tutto una riduzione delle tasse, che ammonta quest'anno a 29 miliardi, nel 2016 e nel 2017 sarà di 35, di ottenere una riduzione del deficit da 3% a 2,4%, e con tutto questo investire in altre priorità del Paese e del Governo. Il piano scuola 3 miliardi per la liberazione di risorse per i comuni, il famoso patto di stabilità, 2 miliardi di ammortizzatori sociali, sicurezza, cultura, povertà, sud. Tutto questo fatto attraverso un'azione sulla spesa estremamente forte e decisa. Questi sono i fatti. Dopodiché la riduzione della spesa, la revisione della spesa, non la riduzione della spesa, si fa di fatto agendo in due modi. un po' come una persona che si deve mettere in forma, c'è un elemento della dieta, quindi taglio quello che mangio, taglio i capitoli di spesa. D'altra parte bisogna cambiare stile di vita, perché se no questa perdita poi alla fine non si sostiene nel tempo, perdita di peso o riduzione di spesa. Quindi cosa stiamo facendo? Da un lato abbiamo fatto i tagli di capitoli di bilancio, dall'altra parte stiamo agendo per rendere la pubblica amministrazione più efficiente. Più efficiente significa intervenire proprio sui meccanismi. Ecco che all'interno di questo uno degli elementi, poi ci sono altri, se c'è tempo ne parliamo, uno degli elementi importanti è la creazione di un sistema di acquisti dove si passa da 35.000 stazioni appaltanti o compratori a un sistema dove sono 33. Questo è un sistema su cui lavoriamo da mesi, su 19 categorie che assieme fanno 15 miliardi di acquisti, c'è a partire dai prossimi giorni l'obbligo e il sistema di acquisti attraverso questo sistema di 33 centrali, una centrale nazionale, 21 centrali regionali e 11 centrali delle città metropolitane delle province. Questo cambiamento, un cambiamento importante non solo dal punto di vista di obblighi normativi, ma abbiamo creato un sistema di soggetti che lavorano tra di loro in rete, che condividono esperienze, che condividono know-how. Questo sistema permetterà a comprare meglio, che significa le qualità giuste, la qualità giusta e ovviamente a prezzi più bassi. Gutgeld, due domande. La prima, questo come si integra con il tema dei costi standard? Perché lo spiego a tutti, nella sanità in primis, ma non so, le famose sacche di plasma pagate 16 volte a Reggio Calabria rispetto a quanto costano in Val d'Aosta. Cioè, quindi questo, il fatto che vi siano solo 35 stazioni appaltanti vorrà dire che si introdurrà il concetto dei costi standard anche nella sanità e non di quello che riguarda, per esempio, dicendo che la sacca di plasma, il cerotto, deve costare più o meno la stessa cifra di tutta la penisola e non guardando ai costi storici? Allora, il problema non è, dico subito che il problema non è Reggio Calabria o Val d'Aosta, le posso dire che nella stessa regione, nel nord o nelle stesse regioni del nord, due ospedali lontani uno dall'altro 6 km comprano gli stessi prodotti a prezzi doppi uno dall'altro. Quindi il problema è diffuso, perché chiaramente comprando ogni azienda ospedaliera, comprando per conto suo, si sono create queste situazioni. Questo si risolve non dicendo che bisogna rispettare i costi di ma comprando in modo più aggregato e più efficiente. Quindi non è un intervento normativo. Dire che bisogna comprare a questo prezzo è una bella cosa, poi alla fine per farlo succedere bisogna che si compra assieme, si compra le stesse cose, e questo è il vero cambiamento che abbiamo fatto. Quindi è un cambiamento vero nel modo in cui opera la pubblica amministrazione, come compra, come pianifica, cosa compra, è una vera, diciamo. E da quando saranno operative queste 35? Queste centrali sono già operative. Quest'anno, ovviamente questo processo è un processo graduale, non si passa subito tutto l'acquisto della pubblica amministrazione di 131 miliardi. Quest'anno partiamo con 15 miliardi e ovviamente l'obiettivo è nel tempo aumentare il numero di categorie e ovviamente le dimensioni di quello che viene acquistato in modo centralizzato. Quindi quanto ha annunciato, per esempio, mi scusi Gutgeld, l'amministratore delegato di Consip Luigi Marroni ha detto che da marzo partirà la prima gara nazionale per l'acquisto delle siringhe a prezzo unico. Questo già rientra in quello che lei ci sta raccontando? Sì, peraltro adesso conti, ma ci sono le centrali regionali. Sì, assolutamente, questo fa parte di questo. Le siringhe entrano in queste 19 categorie. Allora, ho il traffico, torniamo a parlarne, perché qui poi, visto che gli ascoltatori chiedono concretezza, da qui poi si capisce se si arriverà a un risparmio vero o no, o solo fittizio, dopo il traffico. Focus Economia. Allora, vorrei concludere l'intervista con Yoram Gutgeld, commissario alla revisione della spesa, la spending review. Eravamo sul tema delle partecipate. Io ricordo che il suo predecessore Cottarelli, però, Gutgeld diceva, ci sono 8.000 partecipate, di cui 3.000 non hanno nemmeno dei bilanci chiari, hanno meno di 6 dipendenti. Ora, siccome ricordo che le partecipate fanno capo a comuni, province, regioni, lo Stato, ecco, come intendete operare? Perché spesso operano le partecipate anche in settori in concorrenza sleale con aziende private. Le partecipate sono di fatto fatte da due categorie principali. C'è le partecipate che si chiamano strumentali, che fanno attività di fatto dei comuni, delle regioni, sì, delle certo. società informali. Lì il problema è relativo, perché se la società inefficiente costa troppo, se la paga il comune. Noi cosa abbiamo fatto sui comuni? Abbiamo messo in piedi sì il processo dei costi standard, per cui a partire dall'anno scorso le risorse date ai comuni sono legati ai costi standard e non alla spesa storica. Quindi il problema di queste realtà si autocontrolla in questo mondo. Sono risorse date ai comuni, ce la gestiscono loro all'interno del loro budget di spesa, che sarà sempre di più guidato dai costi standard e non dalla spesa storica. Poi ci sono invece le società che fanno servizi pubblici locali. Allora, lì c'è sicuramente una situazione di frammentazione, società troppo piccole, gare non fatte in molte case. Questi settori richiedono interventi specifici. Qua in particolare c'è il settore pubblico locale, c'è la raccolta rifiuti, ognuno di questi settori richiede intervento specifico. Ci sarà ed è previsto un inizio di un intervento in questo senso, però ci sarà ancora altro lavoro da fare. Insomma. Quindi diciamo che sulle partecipate, quelle non funzionali al funzionamento della macchina comunale o provinciale, quelle che gestiscono e delle volte, ripeto, fanno concorrenza anche in debita al settore privato, lì state ancora lavorando? Ma allora, noi faremo un intervento prima di tutto che diciamo rende tutte le società... Perché Gutke lo sa anche lei che lì quello è un gran riciclo di poltrone, di trombati della politica, di rapporti... Noi ridurremo la cosa che faremo nei prossimi giorni è una riduzione del numero delle poltrone, quindi il numero di amministratori, il numero di sindaci e così via, tutto questo verrà fatto, limitazione sul livello di emolumenti, tutto questo verrà fatto. Ripeto, questo è un intervento di natura più simbolica, segnalettica, giustamente, molti di questi sono poltronici, eccetera, eccetera, tutte le cose che sappiamo. No, è che 3.000 hanno meno di 6 dipendenti, questo faccio notare. Appunto, e questi, quindi ci sarà un obbligo di razionalizzare, chiudere alcune delle società, però sono tutte cose molto visibili, però ripeto, prima di tutto questo di per sé non dà nessun effetto di significativo di riduzione di spesa pubblica, perché sono, ripeto, da un lato sono società che già i comuni, le regioni se le pagano, quindi non entrano nel loro budget di spesa, e dall'altra parte sono comuni e sono società che vivono di tariffe, quindi il tema se in realtà sono la qualità dei servizi, tema molto importante, però richiede intervento settoriale, quindi, e su questo bisogna lavorare, raccolta rifiuti, trasporti, di nuovo per dare servizio migliore ai cittadini, per ridurre gli aumenti di prezzo che si fanno nel tempo, ma non sono interventi che generano risorse per la riduzione delle tasse, per investimenti in infrastrutture, per dare maggior sicurezza sociale. Tutto questo non verrà da questo, verrà dagli interventi che si stanno facendo sugli acquisti, sui costi standard dei comuni e su altre aree della pubblica amministrazione su cui stiamo lavorando. Una mia curiosità nel salutarla, Gutke, lo sa che la società che ha fatto la spending review per il governo britannico è italiana? Sì, la conosco, certo. Ma no, dico, che ha dato una mano, certo. Sì. No, perché noi siamo molto più, le dico che il livello di informazione che abbiamo noi sulla spesa e la capacità di controllo della spesa nostra è migliore di quella inglese. Le dico anche un altro numero, così sfatiamo qualche mito. Nel 2015 la spesa nostra pubblica per stipendi e acquisti di beni e servizi, il cuore della spesa corrente, e rispetto al 2014 è circa 4 miliardi in meno, dopo aver investito nella scuola, nelle ammortizzatori sociali, cioè, eccetera, lei dice eccetera, la parte degli 830, quella, i 140 più o meno, 136 non mi ricordo, che vengono spesi per beni e servizi, gli acquisti intermedi. Noi abbiamo ridotto, noi abbiamo ridotto e abbiamo, diciamo, gli stipendi pubblici sono fermi nonostante l'aumento della scuola e la spesa per acquisti è diminuita. La spesa inglese per gli acquisti per gli stipendi è quest'anno, 2015 rispetto al 2014, è 13 o 14 miliardi più alta. Quindi va benissimo. No, la mia curiosità, perché molte volte ne abbiamo parlato e loro ci spiegavano, ma lei immagino non saprà già quanto sia importante nella spending review non tanto il taglio che fai lì per lì, ma il mantenimento del taglio e il fine tuning, come si dice in inglese. Quindi per cui noi abbiamo messo in piedi, per esempio, il sistema degli acquisti, questi 33 soggetti che faranno tutti gli acquisti, un sistema centralizzata che però tiene ruolo alle regioni e ai comuni, che non credo ce l'abbia nessun paese in Europa. Beh, bocca al lupo, vediamo, questa è la fase 3, ho capito bene, giusto? Sì, no. Questa, diciamo, è la fase di quello che... Per me, guardi, può essere anche la 4, la 6, a me basta che facciate poi, non solo i tagli, in questo le do ragione, vedo anche gli ascoltatori, perché il problema della spesa nostra non è solo la percentuale sul PIL, lo diciamo molte volte, è la qualità della spesa, e soprattutto su 840 miliardi i 130, diciamo, di acquisto di beni intermedi. Noi non vogliamo tagli alla sanità, vogliamo che le spese, che gli investimenti vadano fatti bene e non sprecando su siringhe, garze, cerotti e quant'altro, magari in macchinari di cui la sanità italiana ha bisogno. In bocca al lupo a Yoram Gutgrad, appunto commissario alla revisione della spesa. Grazie. Adesso andiamo sul GR24, poi commentiamo la chiusura di borsa, più 4,20%, due punti, oltre due punti rispetto alla media delle altre borse europee, 349-238-6666 per WhatsApp, SMS e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Al via dal 22 gennaio le iscrizioni a scuola. Ma come aiutare i nostri ragazzi a scegliere le superiori? I consigli di Radio 24, venerdì 22 gennaio a Cuore e Denari dalle 10.30 e giovedì 28 gennaio nello speciale scuola, quale scelta per i nostri figli, dalle 21. Le vostre domande in diretta o via mail a scuola@radio24.it. Focus Economia. e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa e poi anche il caso specifico Monte dei Paschi, Popolare Emilia Romagna e Cassa dei Risparmi di Genova. Più 4,20% Milano contro il 2% di rialzo di Parigi, l'1,90% di Francoforte, l'1,77% di Londra. In questo momento il Dow Jones guadagna l'1,67%, euro su dollaro quota 1,08. Abbiamo scherzato, uno potrebbe dire con una battuta. In realtà, fermiamoci un secondo su Monte dei Paschi e Cassa dei Risparmi di Genova. Che cosa ha fatto rimbalzare tutte le borse? Lo chiedo a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Dicevamo prima con Alessandro Merli, le parole di Draghi una mano l'hanno data. Sicuramente le parole di Draghi nella seconda parte della seduta hanno consentito ai listini di allungare il passo e appunto di chiudere sui massimi di giornata la prospettiva di una possibile nuova revisione della politica monetaria in marzo, ma anche per quanto riguarda le banche italiane, le rassicurazioni sul fatto che gli nuovi approfondimenti sui crediti non performing non porteranno a nuove richieste di accantonamenti o rafforzamenti patrimoniali, hanno dato il là agli acquisti, in particolare sui titoli e bancari di Piazza Affari, che comunque erano ben intonati già dal mattino grazie alle parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che nell'intervista al Sole 24 era appunto garantito sulla solidità del settore. In particolare, parlando di MPS, aveva definito incredibili i prezzi a cui l'istituto era sceso ieri, dicendo che chiunque sarebbe arrivato avrebbe fatto un ottimo affare. Oggi diciamo che l'ha fatto, oggi il titolo... C'è solo un titolo bancario, lo dico perché un ascoltatore mi dice... Lei non ha ancora infierito sulla Deutsche Bank, lei è un signore. Non è un problema di essere signore o no, è di dare notizie. Deutsche Bank oggi fa eccezione, perde il 3% anche oggi, ma c'è un motivo. Sappiamo che nel 2015 ha registrato perdite per 6 miliardi e 700 milioni di euro al netto delle imposte. Quindi questo è il problema della principale banca tedesca, che è quotata anche a Milano. Andiamo sul resto. Un'altra eccezione la fa Saipem. Qui c'è l'aumento di capitale, si è saputo il prezzo? Il titolo perde il 5,90% oggi. Aumento di capitale che partirà lunedì prossimo, se ho ben visto, fino all'11, giusto? Esattamente, l'aumento di capitale partirà lunedì, il CDA che dovrà fissare il prezzo è in calendario oggi, ma non si sanno ancora le decisioni. Il mercato da qualche giorno scommette su un forte sconto per le azioni di nuova emissione, quindi anche oggi il titolo Saipem è stato venduto, chiuso in calo del 5,87% e anche limitato le perdite sul finale, perché pochi minuti prima della chiusura perdeva oltre 6 punti percentuali. Ancora tra i titoli, insomma, io non riesco a distinguere molto, se non che chi bene si era comportato nei giorni scorsi o si era comportato meno peggio della media oggi guadagna meno. Penso a Luxottica più 0,60, Ferragamo meno 0,40, Italcementi più 0,80, titoli che non erano stati coinvolti in maniera così forte dai tonfi e in particolare da quello di ieri. Sulle banche do i dati, oltre a Monte dei Paschi appunto più 43%, Popolare Emilia Romagna più 11%, Banco Popolare più 10%, Unicredit più 7,90%, UbiBanca più 5,70% e ancora Intesa San Paolo più 4,90%, Pop Milano più 4,40%, Fiat Chrysler più 6,40% e Mediaset più 6,1%, Telecom Italia più 5,40%, Prismian più 5,31%, Buzzi Unicem più 5,20%, Tods più 5%. Ancora migliori e peggiori in assoluto: Monte dei Paschi, Cassa di Spagna di Genova ovviamente, Bion più 25%, Agronomia più 15%, i peggiori in assoluto: Poligrafici Printing meno 6,80%, IKF meno 6,60%, Saipem meno 5,87%, Italo Mobiliare meno 4,30%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso parleremo con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti, del Monte dei Paschi, la Casa del Piano di Genova, cioè della battuta con cui abbiamo iniziato. Vabbè, abbiamo scherzato, questo è dominio degli speculatori, ma non sfugge il tema che, insomma, oggi alcuni lo vedono come un rimbalzo, chi parla del rimbalzo del gatto morto, chi dice no, c'è solo chi ha avuto modo di guadagnare. Vorrei però farvi ascoltare l'intervista che ha realizzato in questi giorni la nostra Livia Zancaner a margine dell'Euro Money Conference. Cos'è? È l'appuntamento più importante che c'è per le banche dell'Est Europa e per tutti, vi partecipano ministri oltre che banchieri di tutta l'Est Europa, si tiene a Vienna, non a caso, diciamo, la porta anche storica e culturale verso l'Est Europa. Unicredit, sappiamo che la banca italiana è una delle banche europee più presenti proprio nell'Est Europa, e la nostra Livia Zancaner lì presente ha intervistato e ha chiesto, insomma, le prospettive al responsabile della divisione appunto di quell'area di Unicredit, Carlo Vivaldi. Ascoltiamo anche parlando di Ucraina e altre realtà e stati di quell'area. Siamo in una parte dell'Europa che cresce, e se comparata con tutti gli emerging markets, forse è l'emerging markets migliore. La crescita del prossimo anno sarà più o meno migliore di quella di quest'anno e sarà anche più uniforme tra tutti i vari paesi. Ci sarà un allineamento tra il 2 e il 4% a seconda del paese. E i tassi bassi della BCE e il calo del petrolio influiscono? I tassi bassi sono una spinta per sicuramente la crescita, non sono favorevoli al sistema bancario, perché tassi bassi implicano bassi profitti e quindi bassa capacità di rimpiegare gli utili. Il petrolio è sicuramente favorevole per molti paesi, a parte la Russia, che è un produttore di petrolio. Quindi... E a livello di conti e piano industriale Unicredit, come contribuisce l'area del centro-est Europa? È un'area nella quale il gruppo continuerà ad allocare più capitale. Oggi contribuisce circa il 24% a livello di totale ricavi, e questa contribuzione aumenterà. Basti pensare che il 30% dell'aumento di ricavi di gruppo arriverà proprio da questa parte, dal centro-est Europa, e il 60% solo del margine di interesse. Contribuiremo a investire 20 miliardi di loan addizionali, quindi di prestiti addizionali, e contribuiremo anche ad assumere circa 9.000 persone. E quali sono i paesi su cui puntate, su cui punterete di più? Paesi come la Cechia, sicuramente la Slovacchia, anche l'Ungheria. Selezioniamo anche la possibilità di prendere dei portafogli in Romania e poi anche la Turchia. Uno dei temi di questi giorni è quello relativo ai non performing loans. Com'è la situazione in questo mercato? Questo mercato è un po' variegato, abbiamo una media più o meno di crediti in sofferenza del 10%. Ovviamente uscendo da una crisi che è un po' quella di quella tutti questi paesi stanno uscendo, implica avere un livello di sofferenze bancarie abbastanza alto. Ci sono paesi che arrivano addirittura al 20%, però ce ne sono altri, tipo la Turchia, che sono al 4%, o la Russia, che nel nostro caso è al 6%, quindi una media del 10%. Nell'orizzonte di piano questo è previsto in calo, e questo grazie alla ripresa, e quindi alla ripresa economica, ma anche alle azioni di tutti questi paesi nel cercare di ridurre lo stock. Quindi c'è un programma di ristrutturazione in tal senso? C'è un programma di intensificazione delle collection, c'è anche un programma di vendita, quindi un insieme di azioni che da parte nostra contribuiranno a far diminuire il livello di sofferenze, e anche un'azione di lobby con i governi in modo tale da migliorare diciamo l'impianto legislativo per far fronte ai pagamenti. In questi giorni le banche, soprattutto quelle italiane, stanno soffrendo. Si parla di un attacco da parte di fondi esteri. Lei cosa ne pensa? C'è un po' di quasi un panico generalizzato che forse non è supportato dai fondamentali. Quindi bisogna forse aspettare un po' che questi si riallineino. Noi ci concentriamo sull'execution delle nostre cose, ne abbiamo tante da fare, abbiamo cominciato a metterle in fila una dopo l'altra, la vendita dell'Ucraina, la ristrutturazione dell'Austria, e continueremo ad essere molto determinati a portare a casa il nostro piano. Allora, così appunto il responsabile di Unicredit, Carlo Vivaldi. Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dopo il traffico, la domanda è molto semplice: abbiamo scherzato oppure abbiamo scherzato nel senso che abbiamo aperto le praterie della speculazione su motivi che, come il Sole, lo ricordo ancora, ha scritto per la maggior parte delle banche, non c'erano, però un tema di fondo resta e resta su alcune banche, che è una cosa un po' diversa. La risposta dopo il traffico. Focus Economia. Allora, preciso l'ascoltatore in vena di polemiche che non abbiamo detto che è il merito delle parole di Renzi, abbiamo detto che è il merito delle parole di Draghi. Poi ho citato l'intervista fatta dal direttore del Sole 24 Ore a Renzi oggi in prima pagina, il quale diceva: non c'è un attacco all'Italia ma ad alcune banche, e le citava. Allora, tornando alle cose serie, Alessandro Platerotti, è stato solo così una prateria per la speculazione, quindi la battuta abbiamo scherzato, ieri perdi il 20, il giorno prima perdi il 15, oggi guadagni il 40, oppure, e mi riferisco al Monte dei Paschi, ma vale anche per la Cassa di Risparmio di Genova, oppure un conto è la speculazione su tutte le banche italiane, perché quella era la tendenza, lo stampede, come dicono in inglese. Beh, a mio avviso non è speculazione, assolutamente, non credo che stia scherzando nessuno, soprattutto i clienti e gli investitori del Monte dei Paschi di Siena. Un rimbalzo dell'entità che abbiamo visto oggi non è credibile, questo deve essere ben chiaro a tutti. Sia a scendere che a salire devono essere movimenti graduali. Rimbalzi dell'entità della stessa borsa italiana, non soltanto delle banche, come quello che abbiamo visto, non è assolutamente sostenibile. Quindi non solo prudenza, ma tenere d'occhio altre variabili, anche perché oggi Draghi ha rilanciato nuovamente la questione della liquidità e degli stimoli straordinari per il sistema finanziario. Ha cominciato nel 2012, io dico attenzione perché ormai a distanza di parecchi anni il minimo toccato dallo spread era 87 punti il 13 marzo del 2015, oggi siamo a 111. Quindi non è che possiamo che è assolutamente... ancora basso, però... Però è superiore, quindi evidentemente sia su questo fronte che in generale sugli stessi mercati finanziari la liquidità è un fattore di rischio, non è un fattore assolutamente che può essere di incentivazione al risparmio, fare mosse avventate. Questo è un momento di essere molto molto prudenti, soprattutto per un altro motivo. Oggi ha cambiato un po' tono Draghi e bisogna che fare molta attenzione alle parole, come sempre si fa col governatore. Nel 2012 disse whatever it takes, farò qualunque cosa sia necessario. Sia necessario. Cioè. Oggi ha detto we won't give up, cioè non ci arrendiamo, e questo è un bel cambio di passo. Quindi attenzione, perché lui stesso è consapevole degli enormi rischi e delle sfide che ha davanti, non solo il mercato finanziario, ma soprattutto l'Europa. Quello che vediamo in questi giorni non è assolutamente incoraggiante. I mercati si stanno muovendo a prescindere dagli immigrati, dalle questioni che stanno un po' dividendo, stanno spaccando l'Europa, e soprattutto si stanno muovendo in un'ottica di ridimensionare quel rischio e quella liquidità che aveva spinto a livelli, ripeto, irragionevoli tutti i mercati finanziari. E questo vale per tutti i titoli bancari e i mercati finanziari. Poi c'è il caso specifico, che non sfugge a nessuno, di Monte dei Paschi da un lato e Cassa di Risparmio di Genova, se vogliamo, dall'altro. Sono dei titoli molto diversi, due situazioni diverse, però forse il comune denominatore può essere così trovato. C'è chi ha detto in questi giorni, sì, loro pagano più, così come oggi recuperano più del doppio rispetto agli altri titoli, ma pagano e sono sotto i riflettori più di altri titoli, perché nelle famose nozze previste del mondo delle popolari, beh, si rischia di avere, un po' come in certi film, tre uomini e quattro donne. Adesso non voglio dire così, perché sennò Monte dei Paschi e Viola si arrabbia, però che qualcuno non riesca a trovare un marito o una sposa, non mi interessa il gender, che tanto va di moda in questo momento, e cioè che Monte dei Paschi e la Cassa di Risparmio di Genova siano le più deboli in questi matrimoni più o meno annunciati. Beh, certamente non sono in una posizione di forza, questo è ovvio, anche perché sono due banche che sicuramente erano già nel mirino del mercato da tempo. Guardare quei rialzi, e ripeto, guadagnare il doppio rispetto a quello che si è perso, è assolutamente un segnale di pericolo, non è un segnale di sicurezza. Però il pericolo non riguarda, in questo senso, e bisogna sempre dirlo, la tenuta delle banche in quanto tale. Le rassicurazioni che hanno dato i manager, chi gestisce queste banche, sono che stanno andando avanti, che non c'è un'emergenza di liquidità. La speranza è di tutti che sia questo. Speriamo che soprattutto le autorità di vigilanza controllino bene quanto viene detto dai manager delle banche, e questo deve essere un altro punto su cui tutti devono fare pressione. Ma in generale dico sull'aspetto delle fusioni, guardate, quello è speculazione pura, questa è speculazione. Ho letto un report di JP Morgan pochi giorni fa in cui dicevano avoid Italy, evitate l'Italia, sono fatto un po' un salto dicendo come evitate l'Italia, si riferivano proprio a questo, alle fusioni bancarie, dicendo finché non si mette in moto il mercato delle fusioni sulle banche è meglio essere prudenti. Ma le fusioni non è che si fanno soltanto, diciamo così, per simpatia, ci devono essere dei presupposti solidi, ci deve essere soprattutto la consapevolezza che una fusione significa anche razionalizzazione, che ha un costo anche sociale che non è indifferente. Detto questo, la situazione del mercato bancario italiano, soprattutto sulla questione delle sofferenze, ovvero dei crediti che non sono performanti, o almeno che non ritorneranno più indietro, inesigibili, diciamo, quella è rimasta inalterata e tutti lo sanno, quindi è inutile che un rimbalzo di borsa può far dimenticare la situazione reale delle banche. Noi abbiamo detto anche in senso contrario, tutti lo sapevano anche a novembre, dicembre, eppure i titoli crescevano. Adesso no, è cambiato. Da prima, all'inizio del 2014. Insomma, il numero sulle sofferenze bancarie è pubblicato ogni mese dalla Banca d'Italia, per cui lo vediamo tutti. E proprio su questo vorrei chiudere con te, Alessandro, per quello che riguarda la Bad Bank. Sì. Allora, che spiego a tutti è l'ipotesi che il governo sta avanzando da oltre un anno con Bruxelles, è la terza formulazione. Il governo vuole creare una struttura che si chiama banca cattiva, in cui fare confluire la maggior parte di questi crediti non più esigibili, che vengano poi comprati da qualcuno. Uno mi dice, ma perché vai a comprare un credito? Perché poi cerchi intanto di esigerlo e soprattutto lo rivendi, c'è tutto un mercato dietro, lo compri basso sperando di guadagnarci con quello che riesci a riprendere, un po' di più rispetto alla banca. La banca ha un interesse perché si libera di un credito inesigibile, deve accantonare meno soldi in vista di quel credito, può liberare risorse per l'economia. Ci sono operatori professionisti che fanno questo di lavoro, comprano crediti di difficile esigibilità e a un prezzo di sconto e cercano di guadagnare su quello che riusciranno a ottenere. Domanda: tutte queste tensioni si placheranno solo quando arriverà, speriamo, il via libera europeo alla Bad Bank? Ma sicuramente in quel momento ci sarà una grande soddisfazione da parte dei banchieri, che hanno degli strumenti potrebbero avere a disposizione degli strumenti importanti per, diciamo così, ridurre il carico e il peso che hanno questi crediti in sofferenza sui loro bilanci. Però, ripeto, attenzione, perché qui non stiamo parlando di una bad bank, ma di una miriade di piccole bad bank che il governo vorrebbe che le banche creassero, quindi lo vedo già più complessa l'operazione, ma soprattutto la vedo complessa perché gli esempi che abbiamo intorno non è che sono assolutamente, diciamo così, che danno l'idea che tutto finisca nel momento in cui ho fatto la bad bank. Bisogna che il mercato poi compri questi crediti, altrimenti è solo un trasferimento di, diciamo così, di crediti, certo, deteriorati da un veicolo all'altro. E su questo credo che bisogna concentrare soprattutto gli sforzi in questo momento, perché il prezzo, diciamo così, di riferimento di questi crediti non performanti lo abbiamo visto con il, con il quasi fallimento delle quattro banche. Quella è l'unica bad bank che esiste attualmente in Italia. E beh, insomma, lì il prezzo che è stato fatto è un prezzo che è sicuramente molto molto basso e penalizzante, e questo rende difficile comunque pensare che possa comprare e realizzare dei suoi, diciamo così, un guadagno immediato. Anzi, se vediamo un po' quello che sta succedendo in altre bad bank, faccio ad esempio quella spagnola, c'è una perdita di 450 milioni di euro soltanto gli spagnoli l'hanno fatta, certo. Esattamente, quindi non è detto che fare la bad bank risolve tutti i problemi. Bisogna far crescere l'economia, bisogna che l'Europa riprenda un attimo a lavorare se vuole mantenere unita, perché dopo, prima o poi, ci saranno poi delle spinte centrifughe che sarà difficile tenere insieme. Su questo sfondi una porta aperta. In una battuta, visto che siamo in conclusione, ma visto che oggi il titolo più forte dell'intervista del direttore Renzi è appunto "non c'è un attacco all'Italia ma ad alcune banche", e poi oggi Renzi ha ribadito in conferenza stampa "non credo che l'Italia sia una sorvegliata speciale". Secondo te l'Italia è una sorvegliata speciale a livello europeo? Io credo proprio di sì, visto che sono già mesi che continuano a darci non solo degli moniti ma soprattutto degli avvertimenti pesanti. Ricordo ancora l'intervista fatta qualche settimana fa dall'assistente di Schäuble, in cui addirittura ci disse di rivolgerci alla Troica. Io lo rimanderei a casa al mittente e la Troica può prendersene in casa lui. Quindi ripeto, questo non è un attacco all'Italia, ma sicuramente c'è una pressione eccessiva su un paese che ha già pagato fin troppo quello che è successo finora. E da lì poi il ragionamento che abbiamo fatto nei giorni scorsi: quanto possa pesare lo scontro politico apertosi tra Roma e Bruxelles, anche... Ma io credo, guarda, anche io, se mi permetti una cosa, io qui dicono tutti "ma hai trovato alleanze a Renzi nel tuo sforzo". Alleanze o non alleanze, questo non è il momento. Gli altri nel resto d'Europa non cercano alleanze, quando chiudono le frontiere o mettono il filo spinato. No, no, ma... Se andiamo a prendere il manuale su cui si regge insieme l'Europa... Non posso darti ragione, perché sennò divento un monologo a due, diciamo così, però... È una posizione che abbiamo da tempo. Devo dire che la Francia poi deciderà, ma l'intervento di François Hollande, che è passato più inosservato perché crollava la borsa e quant'altro, era un intervento fortissimo, perché quando tu parli di emergenza del paese, la disoccupazione, a mio avviso, in un paese che non riesce a stare mai sotto il 3% di deficit come la Francia, vuol già dire che tu hai altre priorità legittime. Se fosse negli Stati Uniti sarebbero più che legittime, cioè la disoccupazione. Io dico una cosa semplicemente: non possiamo assolutamente far accettare, soprattutto agli italiani, il fatto che la Francia possa ignorare completamente le regole sul deficit, nessuno ne parla, e noi con lo zero virgola siamo sempre davanti alla lavagna. Grazie Alessandro Mazzarotti, direttore del Sole 24 Ore. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi, partendo dalla poco invidiabile classifica, al di là delle dichiarazioni di Guttgart oggi sulla spending review. Intanto, da Sebastiano Berisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.